Basic Italian, 7th edition, Chapter 4. A. You will hear a set of questions. Answer each question in the negative. After responding, listen for the confirmation and check your pronunciation. 1. Gli studenti vanno in biblioteca? No, non vanno in biblioteca. 2. Graziella va a casa? No, non va a casa. 3. Noi andiamo in classe? No, non andiamo in classe. 4. Giorgio va a lezione? No, non va a lezione. 5. I signori Andreotti vanno in Italia? No, non vanno in Italia. 6. Tu vai al cinema con Luigi? No, non vado al cinema con Luigi. 7. Voi andate a Roma? No, non andiamo a Roma. 8. Andrea e Carlo vanno a vedere la partita? No, non vanno a vedere la partita. 9. Lei va a casa ora? No, non vado a casa ora. 10. Voi andate a passeggiare? No, non andiamo a passeggiare. B. You will now be given three elements. Try to remember all the elements without looking in your manual, and put them into a sentence that tells who is going where with whom. Listen first to the model. Noi, Roma, Olga. Noi andiamo a Roma con Olga. Now it's your turn. 1. Tu, Napoli, Bruno e Mario. Tu vai a Napoli con Bruno e Mario. 2. Io, Madrid, lo studente spagnolo. Io vado a Madrid con lo studente spagnolo. 3. Gli studenti inglesi, Firenze, il professore. Gli studenti inglesi vanno a Firenze con il professore. 4. Io e Graziella, Parigi, la professoressa di francese. Io e Graziella andiamo a Parigi con la professoressa di francese. 5. Il professor Corso, Venezia, la signora Corso. Il professor Corso va a Venezia con la signora Corso. 6. Mamma e papà, Milano, la zia Ada. Mamma e papà vanno a Milano con la zia Ada. 7. Voi altri. Firenze, Patrizia e Giuliana. Voi altri andate a Firenze con Patrizia e Giuliana. 8. Io e papà. Palermo, lo zio Guido. Io e papà andiamo a Palermo con lo zio Guido. Sì. Dove? Where are these places? Listen to the question. For your answer, look at the prompt in your manual. Before starting the exercise, listen to the model. Dov'è Palazzo Vecchio? È in Piazza della Signoria. Now it's your turn. 1. Dov'è la casa di Marisa? È in Viale Francesco Petrarca. 2. Dov'è il negozio di Aldo Rinuccini? È in Via Ghibellina. 3. Dov'è l'ufficio di Marta Rinaldi? È in Via Cavour. 4. Dov'è la banca? È in via Strozzi. 5. Dov'è la biblioteca? È in via Larga. 6. Dov'è il museo? È in via della Colonna. 7. Dov'è il bar? È in via De Panzani. 8. Dov'è la Casa Bianca? È a Washington, D.C. 9. Dov'è la Torre di Pisa? È a Pisa. 10. Dov'è il Ponte Vecchio? È a Firenze. 11. Dov'è il Colosseo? È a Roma. 12. Dove sono gli Uffizi? Sono a Firenze. 13. Dov'è il Ca' Foscari? È a Venezia. D. Listen to the model sentence. Then replace the subject with the new one given by the speaker. The new subjects are listed in your manual, but try to work on sound and recollection alone. First, listen as the model is done for you. Anche voi avete sonno e andate a dormire. Lui. Anche lui ha sonno e va a dormire. Now it's your turn. 1. Tu. Anche tu hai sonno e vai a dormire. 2. Loro due. Anche loro due hanno sonno e vanno a dormire. 3. Io e Michele. Anch'io e Michele abbiamo sonno e andiamo a dormire. 4. Alberto. Anche Alberto ha sonno e va a dormire. 5. Io. Anch'io sonno e vado a dormire. 6. Giorgio. Anche Giorgio ha sonno e va a dormire. 7. Noi. Anche noi abbiamo sonno e andiamo a dormire. 8. Loro. Anche loro hanno sonno e vanno a dormire. 9. I bambini. Anche i bambini hanno sonno e vanno a dormire. 10. Voi. Anche voi avete sonno e andate a dormire. 1. Answer the questions you hear by indicating that the first item mentioned is the preferred item. After giving your response, listen for the confirmation. 1. Preferisce la carne o il pesce, lei? Preferisco la carne. 2. Gli italiani preferiscono il formaggio o il dolce? Preferiscono il formaggio. 3. Gli italiani preferiscono il vino o la birra? Preferiscono il vino. 4. I giovani americani preferiscono la Coca-Cola o il vino? Preferiscono la Coca-Cola. 5. Preferisce mangiare a casa o al ristorante, lei? Preferisco mangiare a casa. 6. In generale, lei preferisce studiare a casa o in biblioteca? Preferisco studiare a casa. 7. Voi americani preferite andare in macchina o andare a passeggiare? Preferiamo andare in macchina. 8. Antonella preferisce la cucina italiana o la cucina americana? Preferisce la cucina italiana. 9. I bambini preferiscono il gelato o gli spinaci? Preferiscono il gelato. F. Answer the next set of questions in the affirmative, but modify the statement with the adverb abbastanza. Listen as the model is done for you. È caro il ristorante Camillo? Sì, è abbastanza caro. Now it's your turn. 1. Le università americane sono grandi? Sì, sono abbastanza grandi. 2. Il museo è affollato? Sì, è abbastanza affollato. 3. Il professore di chimica è bravo? Sì, è abbastanza bravo. 4. È lungo l'esame? Sì, è abbastanza lungo. 5. L'esercizio è difficile? Sì, è abbastanza difficile. 6. La lettura è facile? Sì, è abbastanza facile. 7. È buono il dolce? Sì, è abbastanza buono. 8. È bravo il nuovo cuoco? Sì, è abbastanza bravo. 9. È una persona responsabile, Alfredo? Sì, è abbastanza responsabile. 10. La mamma è stanca? Sì, è abbastanza stanca. G. Answer the next set of questions by juxtaposing the adjectives and adverbs molto and poco. First, listen as a couple of examples are done for you. Ci sono molti studenti in classe? No, ci sono pochi studenti in classe. Anna legge poco? No, legge molto. Now it's your turn. 1. Ci sono pochi studenti in classe? No, ci sono molti studenti in classe. 2. Il dolce è poco buono? No, è molto buono. 3. Ci sono poche partite di calcio in Italia? No, ci sono molte partite di calcio in Italia. 4. Il bambino ha molto sonno? No, ha poco sonno. 5. Sonia ha molta fame? No, ha poca fame. 6. Pochi canadesi visitano l'Italia? No, molti canadesi visitano l'Italia. 7. Pochi italiani parlano inglese? No, molti italiani parlano inglese. 8. Molte città italiane sono di origine moderna? No, poche città italiane sono di origine moderna. 9. Leggete pochi libri? No, leggiamo molti libri. 10. Siete molto ottimisti? No, siamo poco ottimisti. H. You will now be asked a series of questions. Answer in the affirmative, but add the emphatic words anzi and troppo. Listen carefully to the model. Tina è magra? Sì, è magra. Anzi, è troppo magra. Now let's begin. 1. Il dolce è buono? Sì, è buono. Anzi, è troppo buono. 2. L'esame è difficile. Sì, è difficile. Anzi, è troppo difficile. 3. La lettera è lunga? Sì, è lunga. Anzi, è troppo lunga. 4. Marisa è ottimista? Sì, è ottimista. Anzi, è troppo ottimista. 5. I ristoranti sono cari? Sì, sono cari. Anzi, sono troppo cari. 6. La zia Romilda ha pazienza? Sì, ha pazienza. Anzi, ha troppa pazienza. 7. Gli zii sono stanchi? Sì, sono stanchi. Anzi, sono troppo stanchi. 8. Il dottor Centrini è pessimista? Sì, è pessimista. Anzi, è troppo pessimista. 9. Il maglione verde è lungo? Sì, è lungo. Anzi, è troppo lungo. 10. Maurizio ha soldi? Sì, ha soldi. Anzi, ha troppi soldi. 1. Answer the next set of questions in the affirmative, but use the word tutto and use it as a pronoun. Listen to the model. I ragazzi vanno alla partita? Sì, vanno tutti alla partita. Let's start. 1. Le ragazze vanno a vedere il film? Sì, vanno tutte a vedere il film. 2. I giorni sono lunghi e caldi? Sì, sono tutti lunghi e caldi. 3. I ragazzi parlano spesso di economia? Sì. Tutti parlano di economia. 4. I giovani italiani giocano a calcio? Sì, tutti giocano a calcio. 5. Finiamo il dolce? Sì, finiamo tutto. 6. Pulite la casa? Sì, puliamo tutto. 7. Carlo spedisce la lettera via aerea? Sì, spedisce tutto via aerea. 8. Il bambino capisce le istruzioni? Sì, il bambino capisce tutto. 9. La bambina ha i soldi? Sì, ha tutto. J. Answer the next set of questions with the adjective tutto. Listen to the model. Pierino mangia il dolce? Sì, mangia tutto il dolce. Now it's your turn. 1. Compra i libri lei? 2. Sì, compro tutti i libri. 2. I ragazzi vanno a scuola? Sì, tutti i ragazzi vanno a scuola. 3. Luca segue i corsi di matematica? Sì, segue tutti i corsi di matematica. 4. Le ragazze frequentano l'università? Sì, tutte le ragazze frequentano l'università. 5. Elena scrive le lettere? Sì, scrive tutte le lettere. 6. Il cuoco prepara i dolci? Sì, prepara tutti i dolci. 7. La nonna compra la verdura? Sì, compra tutta la verdura. 8. Antonio finisce le lezioni? Sì, finisce tutte le lezioni. 9. Carla ascolta i programmi alla radio? Sì, ascolta tutti i programmi alla radio. 10. Aldo legge i giornali? Sì, legge tutti i giornali. Kay, you will now hear a dialogue between Anna and Michele. After listening to the dialogue, answer the questions in your manual. Before starting, however, look at the vocabulary list in your manual. Ready? Let's start. Dove vai ora? Vado a casa. Vado a studiare per l'esame di giovedì. Hai molta fretta? No, anzi. Perché non andiamo a piedi, allora? Buona idea. Finisco di prendere gli appunti e andiamo. Ma perché prendi tanti appunti? Perché senza appunti non capisco bene le lezioni. Sei pronta? Sì, ecco fatto. Sono pronta. La lingua inglese è difficile. Sì, è vero. Perché non studiamo insieme per l'esame stasera? Va bene, dopo cena, a casa mia. Allora, a stasera. Ciao, a dopo.